Tempo di Sport con Claudio Arrigoni. Portando queste bandiere voi diventate portatori della nazione italiana, voi e tutti quelli che gareggeranno per questa bandiera. Che cosa sono le Olimpiadi e le Paraolimpiadi? Sono una grande festa delle nazioni, non c'è competizione, non c'è gara e non c'è nemmeno, come dire, necessità di stringersi in un tutto unico come c'è per gli stati. Le nazioni si presentano ciascuna con il suo volto, con la sua storia, e voi questo andate a rappresentare. Le parole e la commozione del presidente Napolitano alla consegna della bandiera italiana per Olimpiade e Paralimpiade. È stata una bella giornata di sport ieri, ne parleremo e speriamo naturalmente che sia una bella giornata di sport domani quando si giocherà Italia-Spagna. Bentrovati a Tempo di Sport, Claudio Arrigoni per Radio 24, Giorgio De Luca in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Subito notizia di Formula 1, male le Ferrari, lo avete sentito anche nel GR al Gran Premio d'Europa di Valencia, 11° e 13°, ma per le Ferrari, ma ne parleremo. Partiamo naturalmente dal calcio, il nostro numero verde 800 24 00 24, gli sms invece 349 238 6666. Ci credete in questa nazionale, vigilia importante per l'Italia all'europeo? Siamo al dentro fuori. Ieri la Germania, che secondo me è la squadra più bella di questo europeo, ha eliminato la Grecia. Stasera Francia-Spagna, quel che ci interessa di più naturalmente è domani. Buongiorno a Mino Taveri di Sport Mediaset. Buongiorno Mino. Ciao Claudio, ciao, buongiorno a tutti. Uno dei conduttori più importanti per lo sport di Mediaset. Mino, allora la domanda che ho fatto ai nostri ascoltatori, che potranno rispondere all'800 24 00 24, ci credi in questa Italia? Ma ci credo almeno fino a domani sicuramente, contro l'Inghilterra. Io non ritengo l'Inghilterra un ostacolo veramente insormontabile, forse come è stato dipinto, per la nostra nazionale. Sono due squadre che si equivalgono, secondo me non c'è grandissima classe nell'Italia, non c'è grandissima classe nell'Inghilterra. Pirlo loro non ce l'hanno, però hanno Gerrard, noi abbiamo in attacco un po' di fantasia, loro hanno solo la potenza magari di Rooney. Non c'è una grande differenza tra le due squadre. Fino a domani direi ci credo e sono anche abbastanza fiducioso. Se dovessimo passare, speriamo, là potrei crederci un po' di meno, visto quello che ha fatto la Germania ieri, soprattutto la capacità di intercambiare tantissimi giocatori e di non subire flessioni sul livello tecnico. Però la Grecia non è stato un grandissimo ostacolo, diciamocelo pure, però la Germania gioca bene, senz'altro. Sì, gioca bene. Io dicevo, la squadra che più mi ha impressionato in queste fasi dell'europeo, naturalmente il dentro fuori poi alla fine può non premiare il migliore, però tu dicevi un po' ci equivaliamo con l'Inghilterra anche a livello un po' di uomini, non abbiamo una vera punta noi, loro forse un po' di più, ecco. Avresti giocato un po' la carta di Natale, oppure ritieni che Prandelli faccia bene a continuare sulla strada Cassano Ballotelli? Ma a questo punto, sai, non fa più tantissima differenza, secondo me. È vero che non abbiamo una punta, non ce l'abbiamo nemmeno se giocasse Di Natale, che comunque no, certo, un po' più punta, o comunque insomma Di Natale ha fatto 80 gol in 3 anni, quindi non è un giocatore che andiamo a scoprire adesso. Probabilmente Prandelli vuol provare a recuperare del tutto Balotelli, cioè Balotelli ha avuto la flessione, poi ha avuto il gol contro l'Irlanda che lo fa tornare su. Probabilmente adesso Prandelli vede Balotelli nuovamente in crescita e allora punta su di lui. Poi contro l'Inghilterra probabilmente sarà una cosa positiva, perché lui giocherà contro la squadra che rappresenta la nazione dove gioca, ma potrebbe anche essere la cosa negativa, perché io so che tra le file inglesi vedrete che domani lo provocheranno in qualche modo, perché lo conoscono bene, lo provocheranno in qualche modo. Speriamo che non reagisca, insomma. Però va bene anche se partiamo con Cassano Balotelli, avere Di Natale pronto ad entrare non è nemmeno una brutta cosa, secondo me. Di Natale o Giovinco, naturalmente. Giovinco, naturalmente, è chiaro. Che forse che forse dei quattro è la più punta, almeno quello che ha giocato di più di punta in quest'ultimo periodo. Come ruolo senz'altro, Di Natale è quello più prolifico, no? Ma non è che lo diciamo noi, lo dicono i numeri, come movimento sicuramente è Giovinco, ma anche lui poi alla fine non è che faccia, è un piccolino, quindi non può stare in mezzo alla difesa con Terry di fronte, con questi giocatori inglesi, probabilmente dovrà per forza di cose anche lui allontanarsi un po' dall'area di rigore, ma va bene così, secondo me va bene così, perché è una difesa che si può prendere sicuramente in velocità e con questi giocatori, con Di Natale, se entrerà Giovinco, li possiamo prendere sicuramente in velocità, ecco. Sentiamo cosa ha detto il capitano della nazionale Gigi Buffon. Ieri ha parlato a lungo. Una delle cose che ha detto è che l'Italia vuole stupire. Noi le difficoltà ce le abbiamo quasi sempre, nel senso che il nostro calcio in una situazione di serenità totale è difficile che ci sia, e per cui probabilmente siamo anche abituati, ecco, a convivere con questo tipo di difficoltà. Però insomma, quello che a noi interessava nel momento in cui ci siamo qualificati, no, dal momento in cui abbiamo cominciato queste qualificazioni all'Europeo 2 anni fa, era poter riscattare la magra figura fatta in Sudafrica e possibilmente stupire. Può stupire l'Italia, Mino? Ah, sì, può stupire, ripeto, non la ritengo una grandissima squadra, Claudio, voglio dire, il livello tecnico è quello lì, parliamoci chiaro, il campionato italiano esprime quello, se andiamo a vedere una squadra per squadra e poi tolti i giocatori stranieri ti rimangono quelli con cui sta giocando, con i quali sta giocando Prandelli, però sai, ha ragione Buffon, noi non siamo mai stati squadra che arriva a una competizione e tutti ci tremano perché c'è l'Italia in quanto Italia, in quanto potenza tecnica, tremano perché l'Italia è una squadra che ti può inventare qualsiasi cosa. Nell'82 ricorderete come partimmo, no? Nel 2006 siamo partiti dello stesso modo, nel 94 siamo partiti male alla prima fase, fummo ripescati e poi alla fine, quando partiamo così male, arriviamo in fondo. Noi possiamo sempre stupire, ma anche all'incontrario, e attenzione, anche in negativo. 800 24 00 24 per le vostre chiamate, 349 238 6666 per i vostri sms. Ci fermiamo per il traffico, poi Mino, volevo chiedere qualcosa su Auction perché tu l'hai conosciuto anche bene. A tempo di sport. Ringraziamento innanzitutto va da parte nostra, insomma, di tutti noi giocatori, tutto lo staff e le persone che ci seguono, al massimo cittadino della nazione che ci rappresenta, cioè Giorgio Napolitano, che per l'ennesima volta, penso con molta serenità, è riuscito a far pervenire dei messaggi, insomma, distensivi e che ci allietano, perché ci fa capire che è il nostro primo grande tifoso, e di questo noi gliene siamo grati e speriamo di poter ripagare tutto facendo un'ottima fase finale dell'Europeo. Ah, Buffon, allora, che ringrazia Giorgio Napolitano, che era stato vicino agli azzurri, lo ha dimostrato anche alla prima partita. Mino Taveri in collegamento con noi da Sport Mediaset. Mino, avevamo detto di Oxon, tu l'hai conosciuto, sì, è stato spesso in Italia ad allenare, in un periodo in cui lo hai anche frequentato. Ecco, dalla stampa di oggi leggo, ha chiesto solo di evitare sborni e ragazze, però degli altri, tabacco e hamburger, poi ogni giorno un giocatore sceglie il sottofondo nello spogliatoio. C'è che differenza con Fabio Capello? Ricordo che Capello aveva addirittura lanciato un piatto durante un pranzo perché era squillato il telefonino di uno dei giocatori, gli aveva tirato contro un piatto. Ecco, che differenza e cosa ha portato secondo te Oxon nel calcio inglese dopo Fabio Capello? Beh, ha riportato sicuramente un po' di calcio inglese, perché Capello aveva molto italianizzato la cosa anche dal punto di vista comportamentale, è chiaro. Però Claudio, non dimentichiamo che questa squadra l'ha forgiata Capello, non l'ha fatta Oxon. Adesso Oxon ha avuto il compito difficile di prenderla da Fabio Capello e di traghettarla, di continuare comunque a farla rendere in un certo modo. anche con tanti meriti, perché insomma hanno fatto le prime due partite senza Rooney, non hanno Lampard, sono giocatori importanti, però Capello ha gestito delle fasi molto delicate di questa squadra, anche dopo il Mondiale, la ricostruzione, la gestione di quei casi che c'erano stati, perché Capello non a caso aveva messo tutte queste regole, perché ricorderete gli scandali che c'erano stati all'interno della nazionale con alcuni giocatori, insomma con mogli, fidanzati vari, non stiamo qua a ricordarle. Lui ha dovuto mediare tra l'atteggiamento di ferro di Capello e un certo modo anglosassone di vedere, comunque nordico, di vedere un po' le trasferte, di vedere i ritiri, di vedere queste cose qua. In questo è stato bravo, ma perché è stato bravo Oxon? Perché conosce sia il calcio inglese sia il calcio italiano, e allora era perfetto per mediare tra queste cose qua. Però l'Inghilterra è molto italiana, da questo punto di vista, come squadra. Sì. Mino, prima di lasciarti andare facciamo un piccolo sguardo sul mercato, perché sì. È vero che si gioca l'europeo, però vedo anche i titoli di molti, di alcuni dei quotidiani sportivi italiani che sono più sul mercato che sull'europeo. Ma c'è la notizia di oggi: Verratti fuori dal mercato, resta a Pescara. Perché Destro probabilmente non va all'Inter. Insomma, le grandi squadre non ci vuole andare più nessuno, Mino. Preferiscono giocare, sai, al Siena, al Genoa, il Pescara. È meglio giocare lì che la Juve all'Inter. Ah, beh, la tendenza sembra quella, probabilmente lì hanno spazio e poi possono giocarsi la nazionale. Comunque Verratti è molto giovane, quindi sì, adesso certo. Magari si rischia, non dico di bruciarlo, perché questa forse è una cosa un po' superata come cosa, anzi dobbiamo superarla questa storia di bruciare i giovani. Poi la Spagna e il Barcellona giocano con le squadre di 20 anni, però è vero anche che poi un Verratti che secondo me andrà alla Juve molto presto, e oggi è molto difficile inserirlo. Ci potrebbe andare anche fra poco, appunto, si toglie dal mercato non vuol dire niente. Bravo, non vuol dire anzi, molto probabilmente vuol dire esatto. Si toglie dal mercato, non ne trattiamo più, tanto fra poco va alla Juve. No, questo senz'altro. Mi dispiace per Destro, perché Destro è un giocatore veramente molto forte. Una volta ne parlavo con Arrigo Sacchi, che gestisce tutte le nazionali, Destro un under 21, che quest'anno ha trovato un po' più spazio, ma siamo sempre alle solite, poi lo spazio lo trovi col Siena, ma lo devi trovare anche col Milan, con l'Inter, con la Juve, col Napoli, se vuoi poi diventare veramente grandissimo. Se non gli danno questo spazio siamo sempre alle solite, magari Destro più di Verratti secondo me aveva l'opportunità adesso di andare nella grande squadra, ma non è finita, Claudio, non temere, non è finita ancora. No, Destro che siamo fuori dal mercato, assolutamente. Grazie a Mino Taveri. Prego, grazie. Ciao. Grazie Mino, ciao, buon sabato e buone partite di questo europeo che appunto ci vede giocare domani contro l'Inghilterra. Sentiamo che cosa ha detto Bonucci proprio dell'avversario dell'Italia. L'Inghilterra sta prendendo uno stampo all'italiana, è brava nella fase difensiva e ha colpito in diverse occasioni sulle ripartenze. E sicuramente è una squadra tosta, ci saranno delle difficoltà, ma in questi giorni le studieremo per poter sopperire quando se ne affronteranno durante l'arco dei, speriamo, 90 minuti. Sì, come ho detto, loro negli ultimi anni a livello di fase difensiva sono migliorati, faranno la loro partita, ma speriamo che le nostre punte gli diano filo da torcere. Allora, un sms che è giunto al 349-238-6666, come si fa a dire che Di Natale non è una punta, punta è chi fa gol, e Di Natale ne ha fatti tanti, mi sembra che Mino Taveri lo abbia chiarito questo, ha fatto moltissimi gol, non si può proprio definire una prima punta, sicuramente è uno che fa molti gol, così come Giovinco, che ha spesso giocato invece da prima punta, anche se forse prima punta proprio non è, e proprio su Giovinco. Un altro sms: Verratti non vuole finire come Giovinco, ecco, quindi essere bruciato subito, e anche questa è un'altra delle cose che abbiamo sottolineato, non bruciare subito i giovani. 800 24 00 24 per dialogare con noi, intanto a farlo c'è Federico Casotti da Sport Italia, uno che il calcio d'Oltralpe lo conosce bene, visto che si gioca Francia-Spagna questa sera. Buongiorno Federico. Ciao Claudio, un saluto a tutti. Ciao. Ecco, diciamo, tu conosci bene il calcio estero, oltre naturalmente quello italiano. Cosa dobbiamo aspettarci da questa Spagna-Francia che vede strafavorita la Spagna? Già il fatto che sia strafavorita la Spagna può secondo me tradursi in un vantaggio per la Francia, perché è una Francia che in questo europeo secondo me ha adottato una condotta di una condotta di gara o di torneo, quasi a voler adottare il basso profilo a tutti i costi, ad avere quasi paura a scoprirsi. Ha fatto una grande partita contro l'Ucraina dopo l'esordio un po' così così con l'Inghilterra, ma lì diciamo che le due squadre si sono annullate a vicenda, e subito è arrivata questa sconfitta con la Svezia che ha un po' ridimensionato tutto, no? E dando quasi l'impressione, anche dalle scelte di Blanc, quasi di una Francia che non ci tenesse più di tanto a vincere il girone, che preferisce magari giocarsi contro la Spagna un quarto di finale ad alto livello, piuttosto che magari finire nella parte del tabellone con Germania, Italia e Inghilterra, come effettivamente è successo, con Germania e Italia, come effettivamente è successo. Una Francia che a mio parere se la può giocare, e se la può giocare pienamente con la Spagna, perché ha comunque dalla sua una qualità ben distribuita all'interno della squadra, una squadra che ha soprattutto equilibrio, e secondo me anche rispetto alla gestione Domenech, che è stata una gestione deficitaria e catastrofica poi nel suo epilogo finale, ha un coach come Laurent Blanc che è pienamente legittimato dalla squadra. Anche le voci e le notizie degli ultimi giorni dello spogliatoio in ebollizione, delle alzate di capo, si dice più che ebollizione, no? Si dice proprio che ci sia stata una mezza rissa in spogliatoio, che sono quelle cose che insomma, poi a dire la verità magari succedono più di quanto si creda, ma che sotto l'aspetto della, per quel che riguarda la Francia, vengono fuori puntualmente. E in questo caso però sembrano essersi ridimensionate, proprio perché rispetto a 2 anni fa, quando c'era un allenatore completamente delegittimato che aveva perso del tutto il controllo della situazione, in questo caso c'è un Blanc che almeno sul campo riesce a tenere insieme in qualche modo le motivazioni di questa squadra e a farsi legittimare attraverso le sue scelte. Blanc è l'allenatore che ha cambiato più giocatori in questo europeo, perché ne ha fatti girare 19, tolti i due portieri, solo 2 giocatori non hanno ancora giocato e sono Reveiller e Matuidi, ed è anche questo un segnale importante, cioè sì, cercare di coinvolgere tutti, anche se magari i senatori mugugnano perché vorrebbero giocare di più, però i grandi tornei si vincono mettendo bene le forze in campo. L'Italia di Lippi del 2006 lo insegna. Sì, assolutamente. 2 nomi, Federico, da seguire di questo Spagna-Francia, uno da una parte e uno dall'altra, secondo te? Allora, io inizio della Spagna. In realtà penso che li conosciamo un po' tutti già da tempo. Direi che Jordi Alba mi è piaciuto molto come volto nuovo, come volto fresco di questa Spagna, che evidentemente ha anche la capacità di creare dei giovani ancora in grado di inserirsi senza rigetto nel tessuto tattico di Del Bosque. Quindi mi è piaciuto molto Jordi Alba nelle prime partite, ed è un punto a favore per chi ritiene che la corazzata spagnola sia destinata a durare anche dopo la fine del ciclo fisiologico di questa generazione d'oro. Dalla parte della Francia io direi Cabaye, perché è un giocatore che secondo me si candida a essere, lo è già in parte, una delle rivelazioni dell'europeo, ed è un giocatore che è un po' emblematico anche di un certo modo di fare mercato, perché lo scorso anno il Newcastle lo ha preso dal Lille, l'ha pagato non poco, però neanche tantissimo, 7-8 milioni, adesso ne vale almeno il doppio, adesso in tanti si sono accorti di lui, ma un anno fa bastava andare a Lille, peraltro non nella chissà dove, ma nella squadra che aveva vinto il campionato francese, e te lo potevi assicurare. Oggi sull'equipe viene paragonato a Didier Deschamps come autorevolezza e come capacità di lettura della partita e del gioco, e mi sento di condividere questo giudizio. Ecco, Federico, hai seguito per Sport Italia proprio il campionato francese, conosci perfettamente quindi questa Francia. 2 questioni. La prima, come ritieni che giocherà Blanc, se lui ha detto mi voglio ispirare a quello che ha fatto l'Italia nella prima partita, e poi in parte lo hai già fatto, però allora ce ne dai un altro, il nome di uno di questi giocatori francesi che possa far bene al campionato italiano. Allora, sul sistema di gioco un Blanc che in questo europeo sembra voler puntare più sul 4-3-3, perché la mediana la vuole comunque tenere folta con Villa, con lo stesso Cabaye e con Aludierra, che viene da una stagione non positiva a Marsiglia, ma che è uno dei fedelissimi di Blanc dei tempi del Bordeaux, quando vinse il campionato e andarono ai quarti di Champions League. Quindi io penso che, nonostante il 90% delle squadre francesi giochino col 4-2-3-1, che è un po' il sistema di gioco più di moda in questo periodo, un po' sorpresa Blanc in questo europeo, sembra voler puntare sul 4-3-3, e in molti in Francia spingono molto per l'adozione magari di un sistema a due punte con Giroud e Benzema insieme, ma Blanc non si fida, preferisce insomma mantenere il 4-3-3 con Ribéry e Nasri o Menes a circondare Benzema. Proprio Olivier Giroud, che però pare ormai avviato all'Arsenal, e qua rispondo alla tua seconda domanda, Giroud secondo me sarebbe un attaccante che potrebbe fare molto bene in Italia, perché ha è un Luca Toni molto più elegante, ancora più elegante nelle movenze, nel senso del gol, andrà all'Arsenal con ogni probabilità. Però secondo me è un giocatore sul quale le squadre italiane avrebbero potuto puntare forte. 800 24 00 24, il nostro numero per gli sms, 349 238 6666. Siamo con Federico Casotti di Sport Italia. Tu hai seguito Sport Italia anche il campionato olandese, Olanda che invece non è andata come forse ci si poteva aspettare, alcuni dicevano addirittura poteva essere la sorpresa di questo europeo. Ma francamente è facile dirlo dopo, però avevo seguito anche gli amichevoli di preparazione e c'era qualcosa che non mi convinceva, più che altro nell'ostinazione da parte di Van Marwijk, che ha un po' fatto l'errore di Lippi nel 2010, se vogliamo, cioè quella di puntare con ostinazione su giocatori che secondo me non c'erano né con le gambe né con la testa. Van Bommel sappiamo insomma che viene da una stagione dove è evidente che aveva imboccato la sua parabola discendente, e Snyder e Robben venivano da un biennio devastante a livello individuale e si è visto poi in campo, sì. Perché questi due giocatori che erano stati così brillanti 2 anni fa, secondo me hanno giocato senza gioia nelle 3 partite dell'europeo, e si è visto poi, perché l'Olanda dipendeva molto da loro, dipendeva anche da una mediana che, come detto, non era più quella ermetica del mondiale, e che poi a cascata è arrivato tutto, perché poi dopo anche la difesa si è capito che non era una difesa all'altezza, perché la mediana non funzionava più in avanti. Se Snyder e Robben non giravano, potevi avere anche in squadra il capocannoniere della Bundesliga, il capocannoniere della Premier League, ma i gol non arrivavano, e di conseguenza poi a cascata a tirare le somme, poi l'esito è un esito abbastanza prevedibile. Io credo che la consapevolezza proprio a livello anche proprio mentale, che il treno buono sia passato a Johannesburg e che quel treno non tornerà più, abbia finito col condizionare pesantemente lo zoccolo duro di quella squadra. Grazie Federico Casotti. Sport Italia conosce molto bene tutto quello che riguarda il calcio europeo. Ci fermiamo adesso per il meteo, ma poi continueremo naturalmente a parlare di calcio, ma non solo, parleremo di Olimpiadi e di NBA. A tempo di sport. 800 24 00 24 il nostro numero verde per chiamarci, Claudio Arrigoni per Radio 24, in redazione Giorgio De Luca, in regia Carmelo Lauricella, e i vostri messaggi sms 349 238 6666, ne leggiamo subito uno perché abbiamo parlato di mercato e molti messaggi arrivano proprio riguardo al mercato del calcio. Secondo me quello che è successo alla carriera di Giuseppe Rossi, dimenticato per anni dai direttori sportivi italiani, servito da monito a non sottovalutare i nostri giovani, e sì, ne abbiamo parlato, parlato appunto di questa rinuncia di Verratti, almeno per ora, Verratti che rimane a Pescara, Destro che non si muove, il Genoa lo blocca a Siena e quindi probabilmente non arriverà all'Inter, c'è un po' questa difficoltà per il calcio italiano di vedere e di far giocare i giovani, speriamo non sia così. Pescara ha messo alla luce tanti giovani nel campionato di Serie B, speriamo possano giocare anche nel campionato di Serie A. Abbiamo detto della Formula 1, male le Ferrari, pole position per Sebastian Vettel nelle qualifiche del Gran Premio d'Europa, il tedesco della Red Bull ha preceduto la McLaren di Lewis Hamilton e le Williams di Maldonado, poi le Lotus di Grosjean e Raikkonen, quindi Rosberg e Kabayashi Kobayashi, abbiamo detto appunto delle Ferrari male in difficoltà con le gomme, Alonso e Massa che sono stati eliminati in Q2, chiudendo rispettivamente all'11° e al 13° posto. Questo naturalmente è un risultato difficile anche da capire dopo l'inizio del campionato. Vedremo un po' domani come andrà. Preoccupa naturalmente il rendimento dei piloti. Le prime parole di Massa: siamo tristi per non essere arrivati nella top 10. Ora la gara è un po' più difficile, sinceramente è molto più difficile, soprattutto in un circuito come quello di Valencia. Solitamente al circuito di Valencia chi parte in prima fila poi alla fine anche vince. Le due Ferrari sono 11° e 13° posto, quindi sarà molto difficile. Montezemolo era a Valencia, ha parlato anche con Eccleston, ha detto: sono state qualifiche stranissime. Nella prima parte siamo più veloci con le medie, poi con le gomme soft è cambiato tutto. Dobbiamo stare attenti che non diventi un campionato del mondo solamente per le gomme. Una notizia di ciclismo anche, perché si è corso il campionato italiano, ha vinto Franco Pellizzotti, poi Danilo De Luca che ha preceduto Moreno Moser. Prima di parlare di Olimpiadi, come abbiamo detto, ieri è stato consegnato il tricolore ai due portabandiera italiani, facciamo un salto indietro perché andiamo a parlare di uno sport che nel cuore mi sta, ma sta anche nel cuore di Carmelo Presti Simone, che ha seguito le finali NBA e che ha visto il trionfo di Miami. Buongiorno Carmelo. Ciao Claudio, buongiorno a tutti. Sì, ho seguito il trionfo di Miami che poi tra l'altro ha vinto il suo secondo titolo qui in casa, quindi puoi immaginare il caos, la festa che c'è stata soprattutto nelle strade del downtown e qui proprio a South Beach, dove tantissimi italiani si sono fatti coinvolgere nella movida che c'è stata qui sulle coste della Florida. Immagino poi che le attenzioni, le parole siano state tutte per il prescelto, per LeBron James. Assolutamente Claudio, è stato lui l'eroe, diciamo così, dei Miami Heat ed è passato, diciamo così, da questa etichetta di big loser, di eterno perdente, così come lo hanno definito qui negli Stati Uniti, a effettivamente essere il king, il re di questa squadra, il re dell'NBA, perché è stato l'MVP di queste finali, è stato l'MVP anche della stagione regolare, quindi insomma è stato lui davvero il trascinatore degli Heat, sostenuto però da un supporting cast di assoluto livello, perché parliamoci francamente, se non c'era Dwayne Wade, se non c'era soprattutto in gara 5, che è stata poi la gara del match point, Mike Miller, che ha infilato quelle 7 triple su 8 tentativi, ma ancora prima in gara 4 Mario Chalmers, in gara 2 è stato decisivo Shane Battier con 17 punti, insomma è un po' tutta la squadra che ha funzionato, e quindi merito anche a questo allenatore giovane Eric Spoelstra, che è da una vita agli Heat, tanto criticato, non come dire, insomma, accolto dalle grandi simpatie qui negli Stati Uniti, qui in Florida, però ha dimostrato di aver assemblato davvero un team vincente. LeBron come Jordan, si chiede Dan Peterson oggi sulla Gazzetta dello Sport, dice: beh, ha capito che si vince in 5. Il paragone con Jordan mi sembra molto molto molto forzato, però insomma si può anche fare da un certo punto di vista, è cambiato molto il basket. Tu cosa ne pensi, Carmelo? Ma sì, insomma, diciamo che lui è sicuramente un giocatore che adesso si avvicina decisamente al, diciamo così, ai miti, ai big, diciamo così. Io ne ho incontrati diversi lì all'American Airlines Arena, c'era Magic Johnson, c'era Chris Mullin, il famoso tiratore mancino dei Golden State Warriors, quindi è un giocatore che sicuramente fa del fisico la sua forza esplosiva, cosa che, come dire, per esempio uno come Magic. Magic era uno che, diciamo così, che giocava di intelligenza, d'astuzia, poi è gigantesco perché è un 2,06 metri, ma faceva delle cose straordinarie. Jordan, grande atletismo ovviamente, formidabile esplosività, lui è veramente un supereroe, visto da vicino, un 2,4 che porta dietro 120 kg con una straordinaria, diciamo così, facilità, effettivamente merita di entrare nel novero, diciamo così, dei grandi. Non so però se riuscirà a diventare il più grande, probabilmente no, a meno che non vinca da qui ai prossimi, al 2020, diciamo così, i prossimi titoli, e allora ne possiamo parlare. Però secondo me i miti restano ancora quelli lì, come Magic, come Larry Bird, come Michael Jordan. Eh sì, su questo siamo d'accordo. Una notizia dall'Italia, Bianchi, Luca Bianchi, che era il vice di Simone Pianigiani, è il nuovo capo allenatore di Siena. Ecco, Siena che ha dominato il campionato anche quest'anno, così come ha fatto nelle ultime sei stagioni. Carmelo, possiamo pensare che Miami possa creare una dinastia nei prossimi anni? Sì, insomma, diciamo che è sulla buona strada, assolutamente, è sulla buona strada. Qui negli Stati Uniti non riesce molto simpatica ai fan, a quelli che seguono la pallacanestro, perché è riuscito a mettere insieme i big three e quindi a accaparrarsi i migliori giocatori come big three, che sono LeBron, Wade, Chris Bosh e naturalmente LeBron James. Però diciamo che insomma è sicuramente sulla buona strada. Proprio all'American Airlines Arena ho incrociato David Vanderpool, che in Italia è ben conosciuto perché ha giocato con Avellino, ha giocato anche con Siena proprio, e con in Europa con il CSKA di Mosca, e lui mi diceva, proprio a proposito di Siena e di Pianigiani che è andato via, che lui conosceva perché era il suo assistente quando giocava a Siena e il capo allenatore era Ricalcati, diceva che Banchi è sicuramente un ottimo allenatore e merita soprattutto di avere questa chance, perché oramai è da 6 anni a Siena e quindi si è guadagnato, diciamo così, dei crediti giusti per guidare con attenzione questa grandissima squadra. Però su Miami, Claudio, e chiudo, su Miami direi che comunque insomma ci sono tutte le premesse per creare una squadra, diciamo così, importante, che possa avere anche appeal a livello appunto di tifoseria, di merchandising, di marketing in Italia, perché un giocatore come LeBron sicuramente crea attenzione e comunque insomma è un super giocatore. Carmelo, ti chiedo di pazientare solo un minuto perché abbiamo il traffico, poi volevo chiederti una cosa invece riguardo a questo tuo giro negli States, prima di parlare anche di Olimpiadi. Traffico. Tempo di sport. 800 24 00 24 per dialogare con noi, 349 238 6666 per i vostri sms. Uno ne è arrivato anche ora. In merito a Verratti si può menzionare Zeman, non è un peccato, no, assolutamente, infatti lo abbiamo anche fatto perché abbiamo parlato del Pescara, naturalmente senza menzionare lui, ma è vero che Zeman ha nel corso degli anni ha portato sempre tanti nuovi giocatori, soprattutto tanti nuovi giocatori giovani alla ribalta nazionale e anche internazionale, sicuramente uno che scopre i giovani, quindi giusto questo sms che è arrivato al 349 238 6666. Sempre per quanto riguarda il calcio italiano, possibile che uno come Miccoli non era utile per questo europeo? Può darsi, anche se francamente lì davanti forse ci stava meglio una prima punta, ecco, piuttosto che aggiungere di nuovo un giocatore come Miccoli, che ha caratteristiche poi non così diverse dai Giovinco, dai Di Natale, anche dai Cassano e dai Ballotelli. Intanto si è tenuta la conferenza stampa di Auction, si sta tenendo proprio in questo momento. Fra le prime cose ha detto: non ci sono alternative, dobbiamo vincere, non ho capito cosa significa giocare l'italiana, dovete dirmelo voi. Naturalmente, come sempre, Roy Auction ironico e pungente. Con noi c'è Carmelo Presti Simone, che ha seguito le finali NBA fra Miami e Oklahoma City. Carmelo, un'ultima curiosità, poi prima di lasciarti, che cosa ti ha dato questo viaggio? Perché credo che una delle cose più belle per chi ama lo sport sia seguire una finale NBA, si gioca naturalmente fra varie parti degli Stati Uniti, si deve muovere, si conoscono anche culture diverse all'interno dello stesso paese. Assolutamente Claudio, guarda, la tua domanda è assolutamente pertinente perché qui mi si è aperto un nuovo mondo. Avevo solamente immaginato o sospettato, diciamo così, la dimensione, quella che era la dimensione sportiva americana, ma si è aperto davvero un nuovo mondo perché c'è una grandissima disponibilità da parte di atleti, staff tecnico nel rilasciare interviste. Sappiamo tutti bene che negli Stati Uniti le interviste si fanno negli spogliatoi, proprio mentre i giocatori, quando i giocatori appena finita la doccia si concedono, diciamo così, a microfoni e taccuini, e mi fa sorridere noi che facciamo i giornalisti da qualche anno, per esempio, ecco, seguendo i club di calcio di Serie A, quando ci sono appunto giocatori o uffici stampa, staff della comunicazione che fanno un po' i sostenuti nel diciamo così, darti la possibilità di intervistare in esclusiva qualche giocatore. Questi che sono dei grandissimi atleti, persone molto serie, molto per bene, subito si concedono, massima disponibilità, grande apertura, grande cortesia, grande cordialità, quindi veramente la dimensione sportiva degli Stati Uniti è quella giusta. E sugli spalti, sulle gradinate, sulle arene, la gente va veramente a divertirsi, urla, canta, balla, grida, ma si va a divertire. Se vince la squadra del cuore, bene, tutti contenti. Se perde, pazienza, insomma, take it easy, come dicono qui, prendila facile. Sì, beh, è stato un bel viaggio, ne sono sicuro, grazie anche per questa testimonianza, grazie Carmelo, poi ci sentiremo, magari ce lo racconterai ancora, grazie a Carmelo Prestisimone che ci ha parlato di NBA per questa chiusura del campionato con la vittoria di Miami, la prima per il prescelto, per LeBron James. Ultima pagina perché parliamo anche di Olimpiadi. È giusto farlo. Ieri c'è stata la consegna da parte del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che ha affidato a Valentina Vezzali per quanto riguarda l'Olimpiade e Oscar De Pellegrin per quanto riguarda invece la Paralimpiade il tricolore, dietro cui sfilerà l'Italia alla cerimonia di apertura dei giochi. Allora andiamo a sentire le parole dei due portabandiera, prima naturalmente Valentina Vezzali. Io sono certa, signor Presidente, che il 27 luglio, quando io e l'intera squadra entreremo allo Stadio Olimpico con la bandiera in mano, in ognuno di noi si accenderà un fuoco dentro, e questo fuoco sicuramente ci permetterà di dare il massimo in ogni competizione. Dare il massimo non significa vincere a tutti i costi, perché si può vincere ma si può perdere, ma l'importante è che in ognuno di noi non si abbia nulla da recriminare, ma che si abbia dato tutto quello che si può. Quindi bandiera italiana che porterà anche lei con commozione Valentina Vezzali, malgrado sia una che è ormai abituata alla passerella olimpica, così come abituato alla passerella paralimpica è Oscar De Pellegrin che è il portabandiera alla Paralimpiade, atleta che ha iniziato con il tiro con la pistola alle Paralimpiadi, poi è passato al tiro con l'arco, anche per lui è la sesta Paralimpiade, atleta paraplegico che tira con l'arco appunto in carrozzina. Non ci sono differenze, il ricordo naturalmente va a Paola Fantato, un vanto per lo sport italiano, perché Paola Fantato, proprio tirando in carrozzina con l'arco, ha partecipato non solo alla Paralimpiade ma anche all'Olimpiade di Atlanta nel 1996, è stata la prima atleta in assoluto a partecipare nella stessa edizione a Olimpiade e Paralimpiade, quello che vorrebbe fare anche Oscar Pistorius, speriamo ce la faccia, per quanto riguarda Londra 2012. E proprio verso Londra 2012 sentiamo anche le parole di Oscar De Pellegrin. Io credo che oggi sia l'ennesima dimostrazione che lo sport veramente unisce, veramente oggi sotto questa bandiera siamo uniti. Io credo che nello sport l'impegno, il sacrificio, la voglia di arrivare a raggiungere un risultato sia comune a qualsiasi atleta. Quindi grazie allo sport dobbiamo continuare a far sì che sempre più atleti si avvicinino a questo veramente meraviglioso movimento. E colgo anche l'occasione per dire al signor Presidente che noi saremo lieti di attenderlo a Londra, magari a visitare qualche gara del programma paralimpico, perché così può toccare con mano veramente questo fantastico movimento sportivo e culturale. Eh sì, ha ragione Oscar De Pellegrin, le Paralimpiadi sono meravigliose, ne ho seguite diverse e davvero farebbe una cosa bellissima Giorgio Napolitano se partecipasse non solo alla cerimonia dell'Olimpiade, così come ha promesso, ma anche alla cerimonia della Paralimpiade. Pensate che alla cerimonia della Paralimpiade di Pechino l'unico capo di Stato presente era Hakam Minejad, quindi ecco, magari anche un capo di Stato di una nazione occidentale sarebbe bene partecipasse alla Paralimpiade. Chiudiamo qui con Tempo di Sport con le parole di Giorgio Napolitano. Grazie in redazione a Giorgio De Luca, in regia Calmero Lauricella, linea al GR, poi c'è Franco D'Assisti con la rosa purpurea. Giorgio Napolitano alla consegna della bandiera. Portando queste bandiere voi diventate portatori della nazione italiana, voi e tutti quelli che gareggeranno per questa bandiera. Che cosa sono le Olimpiadi e le Paraolimpiadi? Sono una grande festa delle nazioni, non c'è competizione, non c'è gara e non c'è nemmeno, come dire, necessità di stringersi in un tutto unico come c'è per gli stati. Le nazioni si presentano ciascuna con il suo volto, con la sua storia, e voi questo andate a rappresentare.